Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di finanza pubblica, parliamo dei conti dello Stato, parliamo di tasse e di spese, di temi che sono quotidianamente all'orizzonte della politica, ma sono anche quotidianamente ai nostri orizzonti, perché tutti noi siamo cittadini, siamo consumatori, paghiamo le tasse, chi più chi meno, e soprattutto poi godiamo anche dei servizi più o meno efficienti che lo Stato ci offre. In fondo lo Stato siamo noi, anche se questo può sembrare uno slogan un po' retorico. E ne parliamo con il professor Roberto Artoni. Buonasera, professore. Buonasera. Roberto Artoni è professore emerito di Scienza delle Finanze presso l'Università Bocconi di Milano e ha appena scritto un libro per l'editore Egea che si intitola proprio Finanza Pubblica. Ecco, proprio nelle prime pagine il professor Artoni riassume quelli che sono i temi fondamentali della politica: ridurre il carico fiscale, ridurre la spesa pubblica, ridurre il costo del lavoro. Tutti temi molto ambiziosi, a cui corrisponde anche la necessità di rinviare di qualche mese o di qualche anno l'impegno con l'Unione Europea di portare il bilancio pubblico in pareggio, e quindi richiede soprattutto una gestione della spesa del bilancio pubblico molto avveduta. Ecco, quindi parliamo di spese e parliamo di tasse. Iniziamo dal primo punto, sul fronte delle spese. Perché è così difficile ridurre la spesa pubblica in Italia? Professor Artoni. Ma ci sarebbe una risposta forse non molto condivisa, che la spesa pubblica in Italia è relativamente contenuta. In sostanza noi, se confrontati con i maggiori paesi europei, abbiamo una spesa pubblica relativamente ridotta nella sanità, nei servizi pubblici generali. Ora, dire che non è una spesa elevata non vuol dire che è una spesa efficiente, ecco, questo appunto bisogna chiarire. Per cui noi oggi avremo bisogno di razionalizzare l'esistente e forse di investire qualcosa sulle strutture pubbliche. Ecco, molto spesso il giudizio che noi diamo sulla spesa pubblica si basa su casi particolari. È vero che la spesa pubblica ha molti sprechi, però è sostanzialmente efficiente. La sanità italiana è sicuramente una delle migliori d'Europa, la scuola ha tanti problemi, però ha anche tanti punti di eccellenza, quindi forse ci lamentiamo dello Stato un po' per luogo comune più che per una reale osservazione di come lo Stato affronta e risolve i problemi dei cittadini. Un'abitudine, posso fare un esempio sulla sanità. Come diceva lei, noi abbiamo tutta una serie di dati sanitari molto buoni confronto agli altri paesi, eppure l'Italia è il paese in cui c'è il maggiore grado di insoddisfazione per il sistema sanitario, sostanzialmente una certa tendenza all'autocommiserazione in Italia c'è ed è molto forte. Ecco, si parla facilmente di mala sanità sulla base di qualche caso, ma mentre le notizie negative fanno notizia, forse anche colpa di noi giornalisti, le tante notizie positive non fanno notizia, ma ci sono indubbiamente. Questo è certo. Però comunque quello che ci vorrebbe è appunto un atteggiamento molto preciso di analisi dei singoli comparti, dei singoli problemi, vedendo anche dove ci sono delle carenze, per esempio, di personale. Certamente l'amministrazione della giustizia ha carenze di personale non tanto nel numero dei magistrati quanto nel personale ausiliario. E forse ha bisogno anche, se parliamo di giustizia, di una modifica, di un cambiamento delle procedure per rendere la giustizia più efficiente, più efficace e soprattutto più rapida, perché una giustizia che impiega anni per arrivare a una soluzione non è una giustizia. Sì, appunto, ci vuole proprio un'analisi tecnica, diciamo così, manageriale dei problemi piuttosto che slogan di vario colore, insomma. E allora passiamo al tema opposto, al tema delle tasse. Ovviamente tutti sono d'accordo sul fatto che paghiamo troppe tasse, anche se anche questo non è del tutto vero, almeno non per tutti, ma è possibile pensare di ridurre la tassazione o magari di modificare la tassazione in modo che sia una tassazione meno forte sul lavoro, per esempio, per i lavoratori o per i pensionati, e sia più forte invece per le rendite finanziarie, come spesso si sente dire. Professor Artoni. Ma io qui ho le mie opinioni. In Italia c'è forse un'anomalia, che è il livello molto elevato relativo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che vuol dire che i redditi relativamente bassi pagano un ammontare sostenuto di imposte. Per il resto è abbastanza allineata a quelli degli altri paesi. L'altro punto debole della realtà italiana è l'incapacità di trovare soluzioni alternative appunto a questa tassazione dei redditi, soprattutto da lavoro e da pensione. Però anche qui bisogna essere cauti, perché imposte patrimoniali in pratica non esistono in nessun paese del mondo. La tassazione dei redditi finanziari è stata molto aumentata negli ultimi anni. Aggiungerei che oggi chi investe in azioni fra IRES sull'impresa e ritenuta a titolo d'acconto del 26% paga uno sproposito di imposte. Per cui anche qui c'è tutto un problema, diciamo così, di ricalibratura, nel senso che non è facile trovare soluzioni, ma si possono individuare degli specifici problemi che meritano di essere affrontati. L'altro problema importante per in Italia è l'evasione, un'evasione che nasce soprattutto nel settore delle piccole imprese, del lavoro autonomo, per cui bisognerebbe affinare degli strumenti di... Ecco, ma lei è d'accordo su chi dice che l'evasione è, diciamo così, colossale, supera i 100 miliardi di euro? No, questo non lo so. So che anche in altri paesi, anche in Danimarca, è giudicata sostanziale l'evasione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa. Ovvero se certi meccanismi che funzionano bene per il lavoro dipendente non funzionano altrettanto bene per il lavoro autonomo. Per cui tornare al reddito normale di Einaudi, al catasto di Maria Teresa, forse sarebbe la soluzione in questi casi, però non devono essere usati per appesantire eccessivamente il carico fiscale su queste categorie. E forse con i mezzi tecnologici che abbiamo adesso, con i mezzi appunto sia di catalogazione sia di analisi, potrebbe essere più facile... Quella è la via. Ecco, applicare appunto dei metodi più razionali anche di imposizione alternativa rispetto alla imposizione dei redditi da lavoro. Ecco, in questa prospettiva un capitolo di questo libro, lo ricordo, Finanza Pubblica, è dedicato al sistema pensionistico. Il sistema pensionistico è molto spesso preso di mira come una delle maggiori dei maggiori elementi di spesa da parte dello Stato. Lei dice, appunto, ricorda come sia cresciuto l'incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo negli ultimi anni per il doppio effetto del calo demografico da una parte, del calo dell'occupazione, del calo appunto anche del PIL. Quindi in questo senso le misure per contenere la spesa pensionistica sono sempre di attualità, professor Artoni? Sì, sono di attualità perché siamo di fronte a un fenomeno forse imprevedibile. Qualche anno fa l'allungamento molto forte della vita media. Rimane il fatto che oggi larga parte dei trattamenti pensionistici in Italia sono a livelli, diciamo così, di quasi sussistenza o poco di più. Quale sarebbe la soluzione? La soluzione vera è riuscire a prolungare il periodo lavorativo delle persone, riducendo pertanto il periodo pensionistico. Però per fare questo ci vuole una buona politica economica che sostenga il reddito. Capisce che se la politica economica produce disoccupati è difficile a questo punto controllare anche la spesa pensionistica. Cioè è tutto un circuito che si autoalimenta. Ecco, in questa prospettiva una maggiore spesa pubblica, un rompere quel patto dei limiti sul deficit PIL che l'Europa, ma noi abbiamo accettato anche come elemento di correttezza di gestione di bilancio, ecco, una maggiore spesa pubblica potrebbe veramente aumentare le possibilità di crescita dell'economia, oppure nella struttura attuale della finanza pubblica una maggiore spesa si incanalerebbe verso i soliti sprechi, professor Artoni? Ma diciamo, per essere precisi, che un criterio di equilibrio nei conti pubblici ci deve essere in sostanza. Tutti i paesi ben ordinati l'hanno avuto e li hanno rispettati. Il problema è che quando regole sensate vengono interpretate in maniera insensata, non sensata, per cui capisce un disavanzo, un indebitamento pubblico del 3% in periodo di buon andamento economico va bene, ma in periodo lo stesso livello di indebitamento quando la situazione è molto negativa e diventa un vincolo eccessivo e impedisce la crescita, l'occupazione in sostanza in un paese. Lei mi dice c'è il pericolo che diventino sprechi, sono d'accordo con lei, però di nuovo ci bisogna avere un minimo di fiducia nella razionalità individuale e collettiva. In Italia ci sono tanti settori sottosviluppati e sottodimensionati dal punto di vista dell'intervento pubblico, sia nella parte corrente sia nella parte in conto capitale, che potrebbero benissimo assorbire una maggiore incidenza di intervento pubblico. Ecco, lei proprio conclude il suo libro con una frase: non si può pensare di annullare gli effetti di cattive politiche economiche con vincoli di bilancio pubblico. Il problema sono le buone politiche economiche, non sono i vincoli di bilancio pubblico. Le buone politiche economiche portano con sé anche il fatto che il bilancio pubblico resti equilibrato. Infatti, guardi, possiamo richiamare la tanto vilipesa storia d'Italia, che poi non è stata così negativa. Noi siamo usciti dalla fine del XIX secolo con un disavanzo di bilancio pesante, con tensioni sociali spaventose, pensi a Bava Beccaris a Milano, e il periodo successivo è stato un periodo di grande sviluppo che ha portato il bilancio pubblico in avanzo, questo del periodo nittiano-giolittiano, per cui vede le difficoltà di finanza pubblica sono più che essere esogene, sono endogene al funzionamento del sistema. Quindi c'è speranza che le cose possano cambiare, la storia ci insegna che anche l'Italia ai tempi passati è riuscita a fare delle politiche economiche sane ed equilibrate. Grazie professor Artoni, grazie di essere stato con noi, abbiamo parlato del suo libro Finanza Pubblica, edito da Egea, sono 160 pagine per 9,90 euro. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione e a Pietro Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon sabato e buona domenica.